Si continua a sostenere che l'uomo derivi dalla scimmia o da qualche altro animale. È vero che la razza umana ha molte cose in comune con il regno animale. Soffre e gioisce, genera, si nutre, muore, ma vi è un particolare non trascurabile che rende la razza umana diversa da ogni altro animale. La vergogna. Nessun altro essere esistente in questo pianeta prova il senso di vergogna. Perché la vergogna, che si esprime con il pudore e il pentimento, non è la conseguenza di una cultura o dell'intelligenza, ma è il risultato di un fattore genetico morale. Perciò, il genere umano è l'unica razza che prova dei sensi di colpa, che si vergogna di aver compiuto un'azione sbagliata. Infatti, la vergogna è un sentimento più o meno profondo di turbamento e di disagio, suscitato dalla coscienza o dal timore della riprovazione e della condanna di altri, come Dio o gli uomini. Questo sentimento non è stato sempre presente nella razza umana, perché quando Yahweh creò Adamo ed Eva, essi non avevano vergogna. La vergogna nacque nel momento in cui essi disubbidirono al loro creatore. Purtroppo, non tutti hanno dato alla vergogna la sua importanza, eppure del vergognarsi o non, dipende il valore della nostra vita presente, come futura. Gesù, rivolgendosi a tutti, ha parlato molto chiaramente in merito. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi rovina se stesso e va in perdizione? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 23-26, Marco 8 e 38. Quando si predica il Vangelo nelle piazze o nei quartieri popolari, è frequente vedere tanta gente che ascolta il Vangelo dalle finestre circostanti. Altre si mantengono a una certa distanza, pochissimi si avvicinano perché hanno timore di farsi vedere, di perdere una certa reputazione. Eppure, quello che viene predicato nelle piazze non è altro che lo stesso Vangelo ascoltato nelle chiese cattoliche. Essi sono quelli di cui parla la parabola del seminatore, cioè quelli che hanno ricevuto il seme in luoghi rocciosi, cioè coloro che odono la parola, e, quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. Gesù aveva predetto che chi avrebbe creduto in lui sarebbe stato deriso e schernito. Egli stesso, nonostante avesse compiuto solo del bene e nella sua bocca non fosse trovata frode, è stato deriso e schernito. Perciò un suo discepolo non può avere diversa sorte. Credere in Cristo significa anche credere al suo messaggio, messaggio che ottiene opposizione ovunque si trovi. Troppe persone sono disposte ad accettare il Cristo glorificato, sono pronte a condividere la sua gloria, ma non le sue sofferenze e la sua umiliazione. Vi è veramente un paradosso. L'uomo non si vergogna di bestemmiare, di rubare, di compiere del male, ma si vergogna quando si tratta di compiere del bene o fare delle scelte giuste quando queste non fanno parte della cultura locale. Quando mi trovo con dei ragazzi per meditare la parola di Dio, spesso fanno la gara per dire stupidaggini o essere indisciplinati, ma quando viene il momento per formulare una preghiera di ringraziamento, i loro volti arrossiscono, gli occhi si abbassano, segno di un disagio e di una vergogna interiore. Dobbiamo sottolinearlo, molti non si vergognano di seguire delle sette o di essere fedeli a una tradizione religiosa sbagliata, eppure si vergognano di seguire Gesù Cristo quale loro Salvatore e Signore. Non dobbiamo mai dimenticare che i primi cristiani seguivano e avevano posto fede in un uomo che era morto in croce. In croce, ricordiamolo, andava solo la serie reputata più bassa fra i malfattori. Eppure, i primi seguaci di Cristo non se ne vergognavano. Se la vergogna è il tuo problema, gettala via. Vai a Gesù e segui Lui solo. Perché Lui non si è vergognato di subire la profonda umiliazione della croce, essere denudato, essere esposto allo sguardo di tutti. Se Gesù non si vergogna di chiamarmi fratello, se Dio non si vergogna di essere chiamato il mio Dio, io, un tizzone scampato dal fuoco eterno e, fatto per grazia, figlio di Dio, dovrei vergognarmi del Vangelo? Così non sia. Lo griderò a tutti perché esso è la potenza esplosiva di Dio per liberare dal peccato, dai vizi, dalle schiavitù, dalle malattie, dalle magie, dalla droga, dall'inferno. Posso vergognarmi di una medicina che mi ha fatto del bene. Posso vergognarmi del mio Salvatore. Non sarebbe questa una delle gravi colpe? Gesù disse: «Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vitupereranno e bandiranno il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano i profeti. Mentre il mondo schernisce, chi ha posto fede in Cristo ha mille ragioni per gioire in Lui. Che la nostra testarda volontà umana possa piegarsi alla volontà di Dio. Chi ha posto fede in Gesù Cristo è chiamato a non vergognarsi, ma anche a vergognarsi. Egli è chiamato a vergognarsi del peccato commesso, e chi non ha un simile atteggiamento dovrebbe rivedere la sua fede. Io parlo in termini umani per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate servi del peccato eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto? Dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Romani 6, 19-21. Vi sono persone che quando testimoniano della loro conversione a Cristo, spiegano particolari dei loro peccati con una certa soddisfazione da rendere perplessi gli ascoltatori. E, vero che chi testimonia della sua nuova fede è chiamato a spiegare ciò che ha prodotto lo Spirito Santo nella sua vita per onorare Dio, ma scendere nei particolari quasi fosse in vanto non è un atteggiamento buono. Si deve parlare dei propri errori, come atto di confusione e di umiliazione, ma mai di orgoglio. L'Apostolo Paolo riassume così la sua vita: «E rendo grazie a Cristo nostro, Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signor nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù». 1 Timoteo 1:12-15. Paolo non nasconde ciò che ha fatto di sbagliato nella sua vita, però non specifica nulla, non scende in particolari. Con tre verbi, meno bestemmiatore, meno persecutore, meno violento, meno, fa comprendere quale fosse la sua condotta di prima della sua conversione. E da notare anche che l'Apostolo non si limita solo a riconoscere il suo peccato, ma presenta ciò che il Signore Gesù ha compiuto nella sua vita, e questo sempre per incoraggiare chiunque a porre fede in Gesù per avere la vita eterna. La sua espressione «ma mi è stata fatta misericordia», perché lo feci ignorantemente, ha un immenso valore. Paolo sta sottintendendo che Dio è misericordioso con chi sbaglia ignorantemente, cioè con coloro che non sanno quello che fanno, e non con chi è consapevole. In effetti è stata anche la preghiera che Gesù rivolse al Padre quando era crocifisso sulla croce: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Luca 23 e 34. Come mi rende riconoscente questo principio divino? Esiste forse una legge che perdona il colpevole ignorante? Quanto è grande l'amore di Dio! A Lui sia la gloria in eterno! Abbiamo detto che un figlio di Dio si deve vergognare per il male compiuto, e ovviamente anche per quello che compie, ma non deve vergognarsi della sua fede riposta in Cristo. Leggendo soprattutto il libro degli Atti, balza all'occhio il lavoro missionario dell'Apostolo Paolo, il suo zelo per annunciare il Vangelo, cioè la notizia che Gesù è morto e risorto. Questa sua passione di far conoscere Gesù faceva certamente parte del suo zelo, ma soprattutto perché egli non si vergognava di ciò che diceva. Infatti, nella sua lettera scritta ai credenti di Roma scrisse: «Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così, quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma». Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, Romani 1,16. Vi sono figli di Dio che si vergognano di confessare la loro fede, si sentono molto imbarazzati di parlare di Gesù, e questo almeno in Italia, in un paese definito cristiano. È comprensibile l'imbarazzo, perché predicare controcorrente non è sempre facile, ma forse il vero problema del loro imbarazzo sta nel non aver compreso il valore del Vangelo. La razza umana vive sotto alla condanna di una vita insignificante, vuota, senza meta, schiava a mille passioni, con un profondo senso di insoddisfazione che lo rende inappagato nonostante tutto il benessere che può procurarsi. Un figlio di Dio che ha trovato in Gesù Cristo la risposta ad ogni suo problema, che in Cristo ha dato senso alla vita e che è appagante, come può rimanere indifferente di fronte a tanta sofferenza? Come può aiutare il prossimo nello stesso modo in cui egli è stato aiutato, cioè predicare il Vangelo? Solo il Vangelo, solo Gesù Cristo è in grado di salvare chiunque crede in Lui. Se vi è questa visione radicale, se non vi è altra speranza per l'umanità, allora un figlio di Dio è pronto a disprezzare il disprezzo e la vergogna, purché qualcuno sia strappato dalla perdizione e da un'esistenza insignificante. L'apostolo Paolo, che aveva capito tutto questo, oltre che testimoniare di non vergognarsi del Vangelo, scrisse a Timoteo, suo figlio spirituale: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per il Vangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. 2 Timoteo 1,8. Questo è l'ordine di Paolo, e questo è pure il mio appello che rivolgo a tutti i figli di Dio. Essere oltraggiato a causa del Vangelo, per ogni figlio di Dio, è un motivo non di vergogna, ma di grande gioia, perché questo conferma che non siamo più di questo mondo, ma siamo già cittadini del cielo. Io posso essere incerto sulla mia fede, posso dubitare di tante cose, ma la vergogna o il vituperio che ricevo nel testimoniare di Cristo sono la garanzia che appartengo a Cristo. Per questo benedico la vergogna che, da strumento di peccato, è diventato uno strumento per glorificare Gesù Cristo. Non vergognarti allora del tuo Salvatore. Non gettare via la tua franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Ebrei 10:35. Ricompensa che dobbiamo attendere con pazienza. Settembre 2004. Ellero.